in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore perché ha due notizie di carattere economico, una che riguarda il grande tema delle banche, banche sotto la lente naturalmente di tutti, un po' per la vicenda delle quattro banche salvate, un po' per il fatto che ci sono ancora dei grandi malati in Italia come il Monte dei Paschi di Siena, un po' per le nuove norme che sono entrate in vigore il 1° di gennaio sul bail-in, però in Italia c'è anche un'altra particolarità che è quella delle banche di credito cooperativo. Giovedì ci sarà il riassetto con anche tutta la questione del recupero dei crediti. Allora il Sole 24 Ore su questo apre titolando appunto BCC, cioè banche di credito cooperativo, varata una holding di controllo con un patrimonio da 20 miliardi che naturalmente ha la finalità di tutelare i risparmiatori. E poi un altro approfondimento, è stata una settimana molto difficile per tutte le borse, non solo quelle europee ma di tutto il mondo. Si dice sempre bruciati tot miliardi quando le borse scendono. Ecco, in realtà venerdì c'è stato un lieve recupero, quindi giusto sottolinearlo, il titolo: le borse recuperano 1.300 miliardi. In Europa è stato soprattutto grazie all'effetto dell'intervento della BCE e delle dichiarazioni del governatore Draghi. Ma restano i timori, lo sottolinea il Sole 24 Ore, per la Cina e i paesi emergenti. Un approfondimento, la lettera al risparmiatore, come sapete sempre ogni domenica il nostro collega di finanza Vittorio Carlini si concentra su un titolo quotato a proposito appunto di borse. Questa settimana è Anima Holding, trovate tutto poi a pagina 16, non solo retail, più attività con i fondi istituzionali. E poi invece alla pagina 18 trovate un intervento di Bill e Melinda Gates, che oltre a essere marito e moglie, Bill Gates naturalmente fondatore di Microsoft, l'uomo più ricco del mondo, sempre nella top 3 degli uomini più ricchi del mondo, ma anche forse il più grande benefattore del mondo, e qui parla appunto degli interventi soprattutto fatti grazie alla fondazione Bill e Melinda Gates, perché siamo ottimisti per la lotta alla povertà. E questo intervento che riassume un po' tutto quello che loro hanno fatto in prima persona come fondazione Bill e Melinda Gates, ma che in generale si può fare. Il tema della povertà naturalmente è anche al centro, come sempre, del forum di Davos che si sta tenendo appunto in Svizzera e che riunisce soprattutto economisti e anche molti politici, e sull'agenda c'è anche sempre la povertà, perché poi sappiamo che le condizioni economiche sono spesso anche alla base dei conflitti, quindi delle guerre, e in questo momento di guerre nel pianeta ce ne sono veramente tante. Il Corriere della Sera, come molti altri giornali, ha una fotonotizia dedicata alle manifestazioni che ci sono state ieri in tante città italiane, in primis Milano e Roma, le manifestazioni pro unioni civili. La legge sta appunto per essere votata, la cosiddetta legge Cirinnà. Ci sono questa difficoltà all'orizzonte di 6.000 emendamenti presentati, e come chiunque può immaginare non sono tutti esaminabili 6.000 emendamenti presentati soprattutto dalle opposizioni a questa legge. Molti i commenti, la cronaca di queste 98 piazze che hanno manifestato pro legge sulle unioni civili è di Dino Martirano, la trovate a pagina 2 e 3. Il titolo principale però fa riferimento a un'intervista che il Corriere della Sera ha al Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Il titolo è Carriere per merito e licenziamenti, così cambia lo Stato. Forse avrete seguito, Marianna Madia è stata ospite questa settimana di una trasmissione televisiva, non ha fatto una bella figura perché ha dato delle risposte inesatte alla questione dei licenziamenti e alla responsabilità dei dirigenti. Qui probabilmente le si dà un po', senza probabilmente le si dà l'occasione, l'intervista di Enrico Marro, di essere più precisa e di correggere gli errori che ha fatto. Ma vi segnalo la rubrica Padiglione Italia di Aldo Grasso, che con ironia, e questa volta secondo me giustissima ironia, parla dei funerali di Ettore Scola, il grande regista che è scomparso a 84 anni qualche giorno fa. L'ironia non è assolutamente riferita a Scola, ma al comportamento di Massimo D'Alema. Vi leggo la rubrica, è molto breve, come ogni domenica sulla prima pagina del Corriere della Sera di Aldo Grasso. La rubrica si chiama Padiglione Italia. E il titolo di quella di questa settimana è Una battuta è l'ultimo regalo di Scola. Il commiato di Scola. La scena è questa, vivida, in apparenza casuale. Massimo D'Alema si è appena recato a porgere l'ultimo saluto a Ettore Scola, nella camera ardente allestita alla Casa del Cinema di Roma. Fuori lo attendono i cronisti. Si sa come vanno queste cose. Davanti a una telecamera si omaggia il defunto, ma soprattutto si omaggia se stessi. Io lo conoscevo bene, mi chiamava sempre, ricordo quella volta che... D'Alema non si sottrae, si schiarisce la voce e attacca. Ettore era appassionato, intelligente, ironico e anche capace di cogliere le debolezze e gli snobismi degli italiani. Un cronista lo insegue, gli chiede di Matteo Renzi, che poco prima ha tributato il medesimo omaggio. E D'Alema risponde in fretta: «Perché? C'era Renzi?» «C'eravamo tanto amati. È una buona battuta, bisogna ammetterlo, da repertorio del defunto. All'improvviso D'Alema non è più D'Alema, ma diventa un personaggio di un film di Scola, con i tratti caratteriali, se non fisionomici, di Mario, il comunista della terrazza, quello che diceva come si era felici quando eravate tutti imbecilli. La battuta di D'Alema è forse l'ultimo regalo di Scola, giusto per artigliare la retorica di queste cerimonie, la passerella dei soliti noti. Eccolo, l'ex presidente del Consiglio che si allontana, felicemente trasfigurato nel ruolo che fu di Vittorio Gassman. Ormai siamo tutti così, personaggi drammatici che si manifestano solo comicamente». E queste ultime parole sono una citazione appunto dal film, uno dei film più famosi di Ettore Scola, con protagonista Vittorio Gassman, appunto La terrazza. E il senso naturalmente è: ma che bisogno aveva D'Alema appunto di usare un funerale, tra l'altro ridicolizzandosi da solo, perché appunto sembrava quasi diventato uno di quei personaggi che Scola in tanti film ha più o meno bonariamente preso in giro. Ma veniamo alla prima pagina della Repubblica, che ha un titolo principale ancora diverso, dedicato a tutto quello che sta succedendo ai confini tra i diversi paesi europei. Il titolo è: Grecia fuori da Schengen, caos nella UE. Schengen naturalmente è il trattato, una delle parti fondanti dell'Unione Europea, che è il trattato per la libera circolazione delle persone, delle merci e anche dei capitali. Ieri proprio a Davos il presidente del Fondo Monetario Internazionale, come molti altri politici ed economisti, hanno cercato di mettere in guardia sul pericolo dell'abolizione di Schengen, così simbolica questa idea che grazie al trattato di Schengen tutti noi cittadini dell'Unione Europea si possa circolare all'interno dei vari paesi senza dover esibire documenti. La fotonotizia, però, vi dicevo, in questo caso come in molti altri casi, è dedicata alle manifestazioni di ieri. Il titolo: Diritti civili, l'invasione delle piazze, siamo 1 milione, Italia svegliati. E poi un bel intervento, magari dopo avremo tempo di leggerne una parte, di Elena Cattaneo, la grande fisica che adesso è capo del CERN di Ginevra. Il titolo del suo intervento: non è un paese per scienziati l'Italia, naturalmente, ma c'è un modo per diventarlo. Si dice appunto spesso che in Italia c'è, oltre a una scarsa cultura scientifica, anche una scarsa propensione a far scegliere, specie alle ragazze, le facoltà scientifiche, per esempio all'università. E Elena Cattaneo, che naturalmente è l'esempio opposto di questo, spiega che invece forse ci sono spiragli per il cambiamento, e anche naturalmente cerca di trasmettere questo amore per la scienza, per la bellezza della scienza, anche quella apparentemente più complicata come la fisica delle particelle. La prima pagina della Stampa, anche in questo caso la fotonotizia è dedicata alle manifestazioni di ieri, il titolo: il grido di 100 piazze, dateci le unioni civili. È un bel commento di Marco Belpoliti, la voglia di normalità delle famiglie arcobaleno. Un altro titolo però che ha molto spazio sulla prima pagina della Stampa è l'annuncio di ieri che gli Stati Uniti starebbero preparando un'azione militare contro l'ISIS, in particolare contro le postazioni dell'ISIS in Libia. Gli 007 italiani nel frattempo sono in Cirenaica per favorire una possibile, speriamo davvero, soluzione politica. Il commento del direttore della Stampa Maurizio Molinari, che per tantissimi anni ha fatto l'inviato e anche il corrispondente di guerra proprio per la Stampa, il messaggio di Obama agli alleati. E poi vi segnalo, perché la Stampa è l'unica che lo mette in prima pagina, che il funzionario del comune di Sanremo, un vigile, che era stato colto in flagrante mentre timbrava in mutande, quindi poi naturalmente dopo aver timbrato se ne tornava a casa a vestirsi o forse a proseguire la sua giornata prima di andare al lavoro, naturalmente, pur avendo timbrato, ecco, è stato licenziato. Tra l'altro poi, come spiega bene Gianni Micaletto all'interno a pagina 16, usando le vecchie norme, quindi norme quelle della famosa riforma Brunetta, quindi come spesso peraltro dice l'ex ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta, le norme per licenziare per licenziare persone che si macchiano di questo tipo di frodi ai danni del datore di lavoro, in particolare in questo caso della pubblica amministrazione, le norme ci sono già, basta applicarle. Poi naturalmente la riforma Madia ne ha magari le ha affinate, ne ha introdotte di nuove, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei dirigenti, però le norme appunto esistono ed è già possibile licenziare persone che hanno questi comportamenti. Il Messaggero titola sulle unioni civili, ma con un punto di vista leggermente diverso, cioè unioni civili: Renzi blinda la legge, intesa sul maxi emendamento in Senato per compattare il PD, questo maxi emendamento che appunto serve a scongiurare questo ingolfamento della legge dovuto ai 6.000 emendamenti presentati dalle opposizioni. E poi un accenno a queste manifestazioni che appunto hanno coinvolto ieri 98 città per un totale di circa 1 milione di persone. La fotonotizia in questo caso è dedicata a New York e Washington e molte altre città della East Coast americana che sono state colpite da quella che viene definita la bufera del secolo. Sono di fatto New York e Washington due città chiuse per neve, molti già i morti per questa tempesta di neve, quasi tutti per incidenti stradali. Un accenno ai licenziamenti anche sul Messaggero, che ha poi all'interno a pagina 16 un approfondimento, perché oltre al caso appunto del vigile di Sanremo che abbiamo citato dalla prima pagina della Stampa, nel 2014 sono stati licenziati 227 statali per comportamenti illeciti e fraudolenti come quello appunto di timbrare il cartellino e poi andare a fare altre cose, proseguire la propria giornata in un altro modo, non lavorando. Ci fermiamo un attimo per la pausa, ci ritroviamo subito. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Prima di tutto un ringraziamento a Marco che giustamente mi ha corretto. Elena Cattaneo non è la nuova presidente del CERN. La nuova presidente del CERN è Fabiola Gianotti, un'altra grande scienziata italiana presa un po' dall'entusiasmo per questi nomi di donne scienziate. Mi sono confusa e mi scuso. Ma veniamo alla prima pagina dell'Avvenire, che ha invece un'apertura diversa, perché l'Avvenire ha intervistato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni che proprio parla delle due grandi zone di guerra dove si sta cercando di intervenire anche con coalizioni internazionali. Una è la Siria e l'altra è la Libia. E quindi il titolo, la sfida di Gentiloni: in Siria una pace possibile, oltre l'embargo, con corridori umanitari e aiuti. E per quanto riguarda appunto la Libia, Gentiloni avverte appoggio del governo italiano, ma non tollereremo il caos. E abbiamo visto che dagli Stati Uniti vengono dei segnali secondo i quali ci potrebbe essere un intervento americano o internazionale proprio in Libia. Vedremo come si evolverà la situazione. E poi un'altra notizia che l'Avvenire sceglie di mettere in prima pagina riguarda la sicurezza nelle scuole. Mesi fa è stato annunciato un piano per mettere in sicurezza la maggior parte degli edifici scolastici, molti dei quali sono fatiscenti o comunque non rispettano le norme di sicurezza. Ci sono stati anche dei fatti di cronaca con dei crolli di soffitti nelle scuole. Questa inchiesta di Avvenire spiega come in effetti i fondi e i cantieri siano aumentati, sicurezza nelle scuole finalmente viene promossa. Poi naturalmente anche un accenno alle manifestazioni di ieri, abbiamo visto in 98 piazze italiane. Secondo l'Avvenire però, l'interpretazione dell'Avvenire è che queste manifestazioni, con migliaia di persone in corteo, e sappiamo che in totale si stima siano state circa 1 milione in tutte queste 98 piazze, secondo appunto l'Avvenire, più che alle unioni civili, la piazza punta alle nozze gay. L'Unità ha una foto della manifestazione di ieri a Roma, e il titolo è Una giornata particolare, che quindi è anche il riferimento a uno dei film più famosi di Ettore Scola, che viene ricordato sull'Unità in prima pagina da Walter Veltroni, che tra le sue molte passioni ha anche quella per il cinema, Vita di un vincitore. Il Fatto Quotidiano torna sulla questione del commissario all'Expo Sala, che ora è anche ufficialmente uno dei candidati alle primarie per diventare sindaco di Milano, candidato del centro centrosinistra, ma il Fatto Quotidiano continua a insistere sulla poca trasparenza che c'è ancora sui conti di Expo e sul ruolo di Sala all'interno della gestione di Expo. E qui il titolo addirittura molto forte è: Sala, mezzo milione di bugie, i trucchi sugli appalti che azzoppano il candidato PD a Milano. L'ultima questione, sapete, sono i lavori che sarebbero stati fatti in una casa di Sala da parte di Michele De Lucchi, che è anche uno degli architetti che ha lavorato in particolare all'Albero della Vita a Expo, ma ci sono altre questioni che riguardano gli appalti su cui si concentra il Fatto Quotidiano. Trovate tutto alle pagine 2 e 3, con anche un altro articolo di Gianni Barbacetto che torna indietro nel tempo, quando Sala era direttore generale della giunta Moratti, quindi una giunta di centrodestra, quel conflitto di interessi quando era DG della Moratti. Nel giugno del 2009 il Comune di Milano voleva vendere la quota di SEA in Gesac, che è la società che gestisce gli aeroporti campani. Advisor fu la Medelan, fondata dal candidato PD. Il manifesto titola "È l'ora dell'amore" e la foto è una delle tante manifestazioni, in particolare quella di Milano ieri, appunto, a favore della legge sulle unioni civili. Libero ha un titolo completamente diverso, un'inchiesta di Claudio Antonelli, un approfondimento di Claudio Antonelli intitolato "Tutti gli investimenti da evitare nel 2016. Vietato puntare sui singoli titoli, sui bond non quotati o convertibili e sui mercati ristretti. Non firmare se non vi fanno almeno 4 scenari, attenti ai costi fissi occulti delle polizze". E poi la fotonotizia è il Pirellone, cioè la sede della regione Lombardia, che è stata, insomma, in qualche modo coreografata dal punto di vista delle luci per promuovere il Family Day, che è la manifestazione che in qualche modo porterà in piazza tutte le persone che sono contrarie alla legge sulle unioni civili e in particolare ai matrimoni gay. Questa decisione della regione, del governatore Maroni, di usare il Pirellone per promuovere questo Family Day è stata molto contestata, e il titolo dell'articolo che poi trovate a pagina 9 è "Lo scontro sulle famiglie gay", e con un approfondimento di Maurizio Belpietro, direttore di Libero: sia le unioni civili, ma questa legge apre al cosiddetto utero in affitto. Che tra l'altro è una possibilità che verrebbe offerta non soltanto alle coppie omosessuali, ma anche a quelle eterosessuali. Il Giornale ha un titolo ancora diverso: "Ci sarebbe stato un sondaggio scomodo per Renzi, oscurato dalla RAI", un sondaggio che riguarda la riforma costituzionale, su cui sapete il premier Renzi ha più volte detto: "Mi gioco anche il mio futuro politico, se per caso il referendum che verrà sottoposto agli italiani subito dopo il passaggio della legge costituzionale, se il referendum desse un esito negativo, io mi farei da parte", ha detto Renzi più volte. Ci sarebbe appunto un sondaggio che mostrerebbe la contrarietà della maggior parte degli italiani al no a questa riforma costituzionale. La RAI non ne ha parlato. Qui il commento è di Augusto Minzolini, parlamentare di Forza Italia, ex direttore del TG1. La Gazzetta dello Sport, ve la cito perché ha tutto il palchettone, che in gergo è la parte del giornale subito sotto la testata, dedicata a Super Phil, cioè Peter Phil, il nostro sciatore italiano di 33 anni, che è di origine di Castelrotto, vicino a Bolzano. Ieri ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, la cosiddetta Streif, che è forse la discesa libera più famosa, ma anche più difficile. Sulla Streif trionfo da paura. Perché? Perché ci sono state 3 cadute importanti, e tra l'altro uno sciatore, Svindal, si è anche proprio chiuso, si è anche rotto un ginocchio. E poi il titolo, però, è il titolo principale dedicato al Milan, che ieri ha pareggiato 2-2, e il titolo è "Che spreco, rimontato 2 volte a Empoli". Ma torniamo alle pagine interne dei giornali e al Sole 24 Ore, che ha un approfondimento sulle finanze dei comuni, sapete, messe a dura prova dalle tutte le riforme sulle tasse locali. Il titolo del Sole 24 Ore, trovate questo tutto a pagina 6, "Il sblocco del patto da 2 miliardi. Il premier conferma le stime sul 2016, già nel 2015 hanno cominciato a correre i bandi di gara, cioè sono aumentati del 30%. Però l'approfondimento di Giorgio Santilli spiega come resti il nodo dei pagamenti pregressi. Nel rilascio della spesa pesa anche la nuova programmazione con i piani per l'edilizia scolastica, di cui abbiamo anche visto sull'Avvenire, e l'efficienza energetica. Dalla prima pagina di Imprese Territori cerco spesso di segnalare tutti quegli articoli che indicano segnali concreti di ripresa economica. Natascia Ronchetti e Ilaria Vesentini ci raccontano come, partendo dalla fiera che si è tenuta a Rimini, il SIGEP, come l'Italia sia leader nel mondo per i gelati. Le vendite sui mercati esteri di macchine e prodotti di base crescono a due cifre. Pensate, il 90% è la quota delle imprese italiane sulle macchine da gelato nel mondo, quindi siamo veramente leader assoluti. La percentuale sul fatturato di export è dell'80%, la filiera ha un fatturato complessivo di 750 milioni, 2,5 miliardi i consumi di gelati, cioè il valore degli acquisti di gelati da parte solo delle famiglie italiane. Vi dicevo l'intervista a Marianna Madia al Corriere della Sera, che parla di questi licenziamenti. Tra l'altro un ascoltatore ci segnala via SMS che poi naturalmente c'è il problema che dopo il licenziamento si può fare ricorso e a volte i licenziamenti vengono annullati. Ricorderete tutti la vergognosa vicenda dei dipendenti di Malpensa fotografati mentre rubavano nelle valigie dei viaggiatori, licenziati e poi reintegrati. Quindi è vero, purtroppo succede anche questo. Comunque l'intervista la trovate a pagina 11, l'ha fatta Enrico Marro, il titolo è "Il dirigente che non licenzia sarà licenziato, le nuove regole del pubblico". Poi invece, a proposito di lavoro che cambia, di come cambia il mondo del lavoro, a pagina 27 un articolo di Giuliana Ferraino, "A misura di famiglia, cambiano i ruoli tra genitori e le ambizioni degli uomini sono diverse da quelle di ieri, ecco perché vanno ripensate anche le regole del lavoro". Quindi non soltanto la questione del congedo parentale, che può e deve riguardare entrambi i genitori, ma anche appunto tutte le altre questioni come il telelavoro, che può facilitare la gestione delle famiglie, specie in un paese come l'Italia, dove ancora i servizi come gli asili nido sono spesso carenti rispetto ad altri paesi europei. Vi segnalo al pagine 36 e 37 una lunga intervista fatta da Pasquale Elia a Beppe Grillo, "Libertà e politica" del comico Grillo. In questa intervista Beppe Grillo, che è tornato nei teatri, dice: "Le persone hanno identificato in me due personalità, psicoterapia di gruppo a teatro per risolvere il caso, faccio un passo di fianco, quindi non indietro, al Movimento 5 Stelle e torno a far ridere appunto in teatro". Abbiamo parlato di Schengen, vi segnalo dalla Repubblica pagina 9 un bel reportage di Andrea Bonanni proprio dal municipio in Lussemburgo, dove tutto è iniziato, quindi dove il passaporto, possiamo dire, così ci racconta anche Andrea Bonanni, è diventato un souvenir. Ma forse, visto queste nubi che si addensano sul futuro di Schengen, forse non sarà così ancora per molto. E poi un'intervista molto interessante al vescovo Borghetti, che parla di questa vicenda di Albenga, dove un parroco, Don Angelo, si è rifiutato di benedire ai funerali la salma di una donna musulmana. Viene definito questo parroco un parroco anti-immigrati. Il vescovo Borghetti dice: "La chiesa è cambiata, basta con i pregiudizi, ora serve un atto di riconciliazione. Questo parroco ha sbagliato, ma non lo purirò". Ci fermiamo però un attimo per la pausa sulle informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo nelle pagine interne dei giornali e sappiamo che in primavera si voterà sia a Milano che a Roma. Abbiamo visto sul Fatto Quotidiano ancora fari puntati sul passato, in particolare del commissario all'Expo Sala, che si è candidato alle primarie del centro-sinistra per diventare il candidato del PD a sindaco di Milano. Ecco, la Stampa invece ha un'intervista di Carlo Bertini a uno dei candidati sindaci a Roma, cioè Roberto Giacchetti, che dice: "Basta guerre tra bande nel nostro partito". E poi un virgolettato: "Marino rivuole Roma, si candidi alle primarie. Marchini viene definito pericoloso naturalmente come avversario, se converge tutto il centrodestra, ma occhio anche alla Meloni". Quindi grande rispetto per questi due avversari, uno appunto Alfio Marchini, che non è ancora chiaro se si candiderà proprio per il centrodestra con una lista civica, e poi invece Giorgia Meloni, che appunto potrebbe essere la candidata ufficiale a sindaco del centrodestra. Su Schengen vi segnalo invece dal Messaggero un approfondimento a pagina 5. Tornare alle vecchie frontiere può costare all'Unione Europea 50 miliardi. E infatti molte spese e nessun beneficio economico. Secondo tutti gli analisti, i danni per i paesi membri sarebbero altissimi se venissero ripristinate le frontiere. E poi una notizia di quelle che Alessandro Milan sicuramente definirebbe da mani sul volante, a pagina 9, Sicilia torna alla legge mancia, 6,5 milioni a pioggia per tutti. La regione concede 18,5 milioni a enti e onlus, ma incassa ne ha solo un terzo. Si va dai circoli di judo alla sagra del finocchietto. E Crocetta, presidente della regione, aveva detto mai più a questo tipo di leggi. Ma passiamo ai supplementi culturali, che c'erano ancora tante segnalazioni anche dalle pagine interne degli altri giornali, ma visto che la domenica ci sono i supplementi culturali, passiamo a quelli e cominciamo naturalmente dal nostro, dalla Domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola questa settimana Poker. Il poker si gioca in quattro, oppure in tre col morto, o anche meglio in tre col pollo. In realtà questa è una citazione da un libro di Stefano Benni. E scrive Ravasi: fino a poco tempo fa nei manuali o nei dizionari di psicologia ci si imbatteva solo nella voce ludoterapia. Ora si è aggiunto con maggior spazio il suo antipodo, ludopatia. È un morbo dell'anima, della mente, della vita, sul quale molti lucrano, spesso con cinismo, implicitamente sostenuti da uno Stato che mira solo alle proprie casse. A denunciare questa degenerazione di quella realtà fondamentale della persona umana che è il gioco è Stefano Benni, con la battuta che abbiamo citato nel suo divertente Bar Sport 2000. Per fortuna, contro la lobby degli speculatori, che non spennano solo ma strangolano i loro polli, si alza la voce di chi svela le tragedie a cui non di rado è condotto il giocatore compulsivo, veri e propri drammi personali e familiari. Già l'antico maestro ebreo Mosè Marimonide nel XII secolo ammoniva: un giocatore perde sempre, perde denaro, dignità, tempo, e se vince tesse attorno a sé una ragnatela. E poi la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, Memorandum, oggi intitolata La lezione europea inascoltata del debito tedesco, che prende spunto dalla lettura di un libro che si intitola Breve storia del debito da Bismarck a Merkel, di Sergio Romano, è un'edizione di Vitale & Co., dove si parla appunto della storia del debito e si parla dei suoi, certo, anche vantaggi a volte, il debito che serve per magari generare spesa pubblica e quindi occupazione, ma anche di tutti i suoi grandi svantaggi. E conclude Roberto Napoletano: credo che per combattere e sperare di vincere questa sacrosanta battaglia europea, qualunque governo italiano volesse intraprenderla sul serio, doveva prima avere alle spalle un patrimonio di credibilità, costruito in anni di duro lavoro, senza concessione alla demagogia e alle furbizie, con un progetto paese vero e un disegno di lungo termine che dimostrano di sapere contenere il peso del nostro maxi debito pubblico. Bisogna costruirlo questo patrimonio di credibilità e bisogna farselo riconoscere. Non so quale dei due sia l'impegno più difficile, ma so che non dobbiamo mai perdere la speranza politica che ciò sia possibile. La storia di copertina vera e propria, diciamo, è dedicata però a Copernico, perché parte da un libro in uscita di Massimo Bucciantini, sotto il segno di Copernico, una splendida edizione critica dell'opera mondo che rivoluzionò l'astronomia e l'umanità. La Chiesa l'avrebbe condannata nel 1616, ma l'autore fu incoraggiato a uscire allo scoperto dal cattolico Nicolas Schönberg. Naturalmente ancora all'interno del Sole 24 Ore trovate tantissime recensioni, tantissimi spunti. Vi segnalo un ricordo di Vittorio Lingiardi, di Robert Spitzer, uno psichiatra americano scomparso nel 2015, Ordine nel disordine mentale, questo è il titolo del ricordo, definito dall'Lancet, forse la principale rivista medica al mondo, il più influente psichiatra del nostro tempo, espunse l'omosessualità dalla lista delle patologie del DSM, che è questa sorta di manuale Bibbia che cataloga i disturbi mentali, di cui fu uno dei fondatori. Nel lexicon psichiatrico, appunto sempre il DSM, incluse anche anoressia, disturbo bipolare da pancreas, panico da stress post-traumatico e molti altri nomi che oggi ci sono familiari. Quindi un grande innovatore di questa scienza ancora così complessa che è la psichiatria. Un approfondimento su Arte Fiera, la fiera dell'arte contemporanea che si apre il 29 di gennaio a Bologna, che poi proseguirà fino al 1 di febbraio, una kermesse che quest'anno compie 40 anni. E poi un bel intervento di James Bradburn, che è il nuovo numero uno di Brera, l'Accademia di Brera, il nuovo direttore, è un architetto canadese, è stato nominato direttore della Pinacoteca e della Biblioteca Braidense, e spiega: ecco la mia Brera. Il programma del nuovo direttore, nuovi ingressi, ascolto dei visitatori, mostre e riallestimenti. Obiettivo: riportare Brera nel cuore dei milanesi. La lettura, il supplemento del Corriere della Sera, come sempre la copertina è dedicata a un artista, questa settimana è a Francesca Leone con un bel ritratto di Primo Levi. Dall'interno vi segnalo un approfondimento di Donatella Cesare su Walter Benjamin, che forse definire filosofo è un po' riduttivo, viene definito in realtà il teologo dell'economia, l'attualità straordinaria di un pensatore che indicò nel capitalismo la religione della nostra epoca, un culto basato sull'indebitamento generale che non conosce tregua né perdono e cancella la differenza tra il giorno e la notte. Tra i suoi sacerdoti c'è anche Marx, il cui socialismo ne è in fondo l'erede diretto. Naturalmente sono molti i libri a cui si fa riferimento per ricordare questa grande figura di Walter Benjamin. E poi un bellissimo articolo di Edoardo Boncinelli, che è uno scienziato, un genetista ma anche un grande divulgatore. Sorrido dunque sono. Edoardo Boncinelli, lo spunto di cronaca è che Edoardo Boncinelli riceverà a Palermo la prossima settimana una laurea honoris causa in filosofia, e qui anticipa i temi della lectio magistralis che terrà, identifica nelle regioni del cervello le ragioni per cui siamo ciò che siamo, e sicuramente sorridere e ridere è una delle cose che ci distinguono per esempio dagli animali. E poi, visto che si sta avvicinando la giornata della memoria, che è la giornata per ricordare la Shoah, l'Olocausto, ed è il 27 gennaio, un articolo di Elisabetta Rosa Spina, l'incredibile viaggio dei bimbi salvati. Lev Nelken sfuggì alla Shoah perché venne trasferito in Gran Bretagna. Una maestra scovava nella Bibbia piste per sopravvivere. Ecco le storie per raccontare il male ai piccoli, perché forse nei modi giusti si può appunto raccontare, cercare di raccontare l'Olocausto anche ai bambini. Sempre sull'Olocausto vi segnalo, ultima segnalazione che ho il tempo di farvi, un bell'articolo di Paolo Rumi. Il più antico del mondo nacque a Venezia 500 anni fa, parliamo dei ghetti. Io sono il ghetto, reportage di Paolo Rumiz con gli scatti inediti del grandissimo fotografo Gianni Berengo Gardin. Era davvero l'ultima segnalazione, anche se come sempre la domenica i giornali sono molto ricchi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia e ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.